fitta l'oscurità scende sulla città, lucciole ansiose di libertà, noi lasciamo i bassi fondi, senza una meta ci incamminiamo e sotto ad un lampio, quando la ronda non incontriamo, cantiamo la canzone. Noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, schiave d'un mondo brutal, noi siamo i fiori del mal. Se il nostro cuor vuol piangere, noi pur dobbiamo sorridere, danzando sul marciapiede, finché la luna c'è. Pallida luna soltanto tu, la nostra gioventù, vedi ogni notte appassire di più, come un fiore senza sole, ma se il destino ci spezzerà nel cuore la canzone, solo il coraggio ci bacerà all'ombra dei bastioni. Noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, schiave d'un mondo brutal, noi siamo i fiori del mal. Se il nostro cuor vuol piangere, noi pur dobbiamo sorridere, danzando sul marciapiede, finché la luna c'è. Sorridere danzando sul marciapiede finché la luna.